ciao a tutti e a tutti, siamo qui sotto l'anagrafe a Via Vetroselli. Questa mattina siamo entrati insieme a voi vecchi di lotta per la casa dentro l'anagrafe per dare una risposta a quello che è il piano di lotta per la, quello che è il piano casa proposto dal governo Renzi, in particolare dalla figura del ministero del ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lupi, lo stesso ministro che del governo precedente, lo stesso ministro che era stato incontrato il 22 ottobre e sta invece rotta per la casa dopo la grande manifestazione del 19 ottobre. Siamo tornati qua sotto l'anagrafe per dire che è impossibile che vengano staccate che vengano annullate le residenze per le occupazioni, che si stanno vedendo i diritti delle persone che vivono in occupazione da anni, tanto più che queste norme dovrebbero avere un valore retroattivo e quindi valere per tutte le occupazioni che sono state fatte nel tempo. Ancora una volta si prova a dare una chiave di ordine pubblico a quello che è un problema sociale fortemente sentito dalla città di Roma e fortemente sentito in tutta Italia, come le occupazioni e gli sgomberi che sono stati fatti negli ultimi tempi e negli ultimi giorni. Ok, ci sono indicazioni anche di prossimi appuntamenti? Sicuramente il prossimo appuntamento importante è la manifestazione che ci sarà sotto la regione il 28 marzo in vista della grande manifestazione che si terrà a Roma il 12 aprile, quando ci sarà un grande corteo nazionale che partirà da Porta Pia e che arriverà a San Giovanni. Si riparte da Porta Pia, dove avevamo chiuso il 19 ottobre, per stare a San Giovanni dove il 1 maggio i sindacati confederati vorranno fare la loro solita sfilata, il loro ciparietto durante la festa dei lavoratori del 1 maggio. Quest'anno abbiamo intenzione di non farli fare la loro sfilata, il loro ciparietto. Non c'è più tempo per scherzare, non c'è più tempo per aspettare. Dal 12 aprile al 1 maggio saranno tante le mobilitazioni e il 12 aprile daremo un segnale, il 1 maggio cercheremo di dare una risposta anche a chi pensa che questa crisi si possa gestire tramite alleanze con il governo Renzi e con i sindacati confederati.